Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria. In mia compagnia per questo appuntamento che si rinnova il primo sabato di ogni mese con il tentativo di sollevare un po' il velo da quel silenzio che copre argomenti così importanti come sono i cosiddetti novissimi, il tema dell'escatologia, il tema di questo obbligo di sollevare lo sguardo al cielo per comprendere il senso della vita. E siamo arrivati al terzo e ultimo appuntamento con questo manoscritto del Purgatorio che vede protagoniste due religiose, o meglio un'anima che dal Purgatorio comunica con una consorella ancora pellegrina sulla terra. Siamo nel 1871 in Francia, quando una epidemia miete moltissime vittime, tra cui una giovane suora di appena 36 anni, Suor Maria Gabriella. Morendo in questa maniera eroica, servendo una consorella, riesce a salvarsi, e salvandosi con questo atto di carità e di servizio, ecco che riesce a evitare quelle pene molto più gravi che poteva meritare una vita tiepida, una vita in cui, dirà lei stessa, non avevo corrisposto alla mia vocazione. Un'altra suora è protagonista di questo dialogo ed è Suor Maria della Croce. Era incaricata di seguire il perfezionamento della vita spirituale e di comunità di questa giovane consorella, tante volte la riprendeva e Suor Maria Gabriella diceva sempre «ma se andrò in purgatorio al massimo mi tirate poi voi fuori». E questo capita veramente perché due anni dopo questa morte, nel 1873, Suor Maria della Croce in cella incomincia a sentire dei gemiti, dei lamenti e capisce che c'è una presenza che chiede preghiere. Soltanto l'anno successivo, nel 1874, incomincia il primo colloquio tra l'anima di Suor Maria Gabriella e Suor Maria della Croce che riceve un ammaestramento dal cielo sia su come è l'aldilà, sia su come condurre la propria vita spirituale. 16 anni di colloquio fino al 1890 che porteranno l'anima purgante di Suor Maria Gabriella a purificarsi e a meritare attraverso i preziosissimi insegnamenti che verranno impartiti a questa suora che in terra cercherà di perfezionarsi fino alla santità, proprio usufruendo degli ammaestramenti che le arrivano dal Purgatorio. Il testo che seguo è proprio intitolato Il manoscritto del Purgatorio ed è stato pubblicato dalle Edizioni Segno nel 1995. Arriviamo a un punto in cui è molto preponderante quella sezione di consigli spirituali che vengono dati dall'anima di Suor Maria Gabriella, Suor Maria della Croce, affinché si possa perfezionare. Perché? Perché se questa suora che ancora sta camminando sulla terra riuscirà a santificarsi, attraverso questo merito l'anima purgante di Suor Maria Gabriella potrà finalmente essere libera e entrare nella gloria del paradiso. Arriviamo al punto in cui si parla della vera santità. Poche persone amano il buon Dio come egli vuole, rivela l'anima di Suor Maria Gabriella. Esse, credendo di cercare il buon Dio, cercano se stesse e vagheggiano una santità che non è quella vera. La vera santità consiste nel rinnegarsi dalla mattina alla sera, vivere nel sacrificio, saper mettere da parte l'io umano, lasciarsi lavorare dal buon Dio come vuole, ricevere le grazie che ci provengono dalla sua bontà con profonda umiltà, riconoscendosene indegni, e tenersi il più possibile alla santa presenza del buon Dio, compiendo tutte le proprie azioni sotto lo sguardo divino, non cercando che Lui quale testimone dei propri sforzi e unica ricompensa. Questa è la santità che Gesù vuole ed esige dalle anime che desiderano essere unicamente sue e vivere della sua vita. Il resto non è che un'illusione. Ecco, vedete con quale concretezza si rivolge quest'anima del Purgatorio a Suor Maria della Croce, dando un consiglio che non vale soltanto per le anime religiose, ma per chiunque fa un cammino di perfezione cristiana. La santità che noi seguiamo nel cammino terreno, il tentativo di adeguarci a quella meravigliosa immagine del Padre, che è Cristo, non deve nutrirsi di gratificazioni umane, di progetti terreni, ma sempre solo cercare la gloria e l'amore di Dio. e sapere che la sua compagnia è quella che più conta, sapere che la sua opinione è l'unica che ci deve stare a cuore, sapere che il suo sguardo è l'unico che si deve voler incontrare. Ritornano poi alcuni accenni anche alla vita in purgatorio, ad esempio rivela a Suor Maria della Croce che il giorno dei morti molte anime lasciano il luogo di espiazione, cioè il purgatorio, per il cielo, e per una grande grazia del buon Dio, quel giorno solamente tutte le anime purganti, senza eccezione, partecipano al beneficio delle preghiere pubbliche della Santa Chiesa, anche quelle del grande purgatorio. Ecco, la festività dei defunti, che è subito dopo Tutti i Santi, il 2 di novembre, e tutte le anime, anche quelle del grande purgatorio, quelle che erano sprofondate più in basso perché si erano macchiate delle pene più gravi, anche queste beneficiano della preghiera pubblica della Chiesa. Questo è un rilievo importante, la preghiera pubblica della Chiesa, la preghiera universale, quella preghiera che attraverso l'elaborazione dell'ascito di Cristo, attraverso la divina rivelazione, il Magistero della Chiesa ha saputo adattare alle esigenze spirituali del popolo di Dio, codificando proprio alcune pratiche per ottenere questo grandissimo dono che è l'indulgenza per i defunti. Tuttavia, precisa quest'anima, l'alleviamento delle pene di ciascun'anima è proporzionato al suo merito. Le une ricevono più, le altre meno. Non di meno tutte sentono gli effetti di questa grazia eccezionale. Tuttavia, non nel giorno dei morti sale al cielo il più gran numero di anime, ma la notte di Natale. Ecco, è bello, a volte magari noi non ci pensiamo, no? Natale significa il presepe, significa Gesù bambino, significa i doni, la famiglia che si ritrova, quel sentimento di bontà che sembra rendere tutto più bello, tutto più facile, e invece uno deve pensare che a livello di grazia, Natale evidentemente è molto più ricca di meriti per queste anime di quanto non possa essere la commemorazione dei defunti, perché è la festa in cui si celebra la nascita del Redentore per eccellenza, che è proprio Gesù. E prosegue, quanto al tempo della nostra liberazione dal purgatorio non sappiamo nulla, se conoscessimo il termine delle nostre sofferenze, ciò sarebbe un sollievo, una gioia per noi, ma no. Vediamo bene che i nostri dolori diminuiscono, che la nostra unione diviene più intima, ma quale giorno, secondo i calcoli della terra, saremo a lui ricongiunte, lo ignoriamo del tutto. Questo è un segreto del buon Dio. Ecco, questo è molto interessante perché quando parliamo del tempo del purgatorio siamo abituati a ragionare in anni, mesi e giorni. Un tempo la Chiesa ragionava così per le indulgenze, poi con la riforma di Paolo VI dopo il Concilio Vaticano II si è deciso di parlare di indulgenze plenarie e parziali senza essere troppo ragionieri e senza, ecco, precisare in modo così analitico i tempi, no? Per non confondere il tempo terreno col tempo del purgatorio. La prima differenza, ce la ricordiamo bene, è che un giorno in purgatorio sembra molto più lungo per le sofferenze che porta con sé di quanto non sia invece durante la permanenza in terra. E per quanto riguarda il problema di essere liberati non sapendo quando, dobbiamo pensare che proprio una forma di purificazione è esattamente questa, una forma di purificazione che si riceve non sapendo il giorno in cui si verrà liberati. Anche questo è un modo per espiare nell'attesa di colmare quel desiderio di Dio che segna le anime dal primo istante dopo la morte. Ancora parla del demonio, di come possa mettere alla prova le anime. Non bisogna meravigliarsi se il demonio e i suoi seguaci talvolta forniscono, intorno all'avvenire, delle conoscenze che si realizzano. Qui si parla un po' della conoscenza del futuro. Il diavolo è uno spirito, per conseguenza possiede astuzie e conoscenze molto più numerose che qualsiasi persona della terra, eccetto alcuni santi che il buon Dio rischiara con la sua luce. Egli si aggira dappertutto cercando di far male, vede quello che avviene nel mondo e a motivo della sua avvedutezza può facilmente prevedere delle cose che si realizzano. Ecco l'unica spiegazione. Guai a coloro che divengono suoi schiavi col consultarlo. Questo è un peccato che dispiace molto al buon Dio. Ecco, il diavolo non conosce il futuro, il diavolo intuisce il futuro, perché è spirito puro, intelligenza finissima, e quindi riesce intuitivamente a mettere insieme quei particolari che magari a un'anima terrena possono sfuggire, ma non conosce il futuro. Questo ci deve rendere molto sereni quando pensiamo che il diavolo ci conosca, che ci potrà mettere alla prova. Molte volte cerca di spaventarci, mettendoci davanti delle conseguenze magari negative o degli accadimenti drammatici che in realtà non si realizzeranno, e soprattutto ci tenta perché seguiamo delle strade alternative per conoscere il futuro, ma dobbiamo sapere che il futuro è nelle mani di Dio. E a Dio, dice quest'anima del purgatorio, dispiace molto quando si diventa suoi schiavi consultandolo. Quindi attenzione a non cercare mai delle scorciatoie. Mi riferisco a coloro che consultano i cartomanti, coloro che fanno i tarocchi, coloro che si dichiarano medium, magari anche con una certa buona intenzione, in realtà servono l'occulto, cercando di svelare il futuro. Io preferisco ricordare quello che la Regina della Pace a Međugorje ha detto tante volte, ma in modo particolare nel messaggio del 25 giugno del 2000 e del 25 gennaio 2001. Chi prega non ha paura del futuro. Non abbiamo bisogno di andare a consultare gli oracoli e men che meno cadere schiavi delle illusioni predittive del nostro futuro che il demonio ci può offrire. Ancora un particolare importante sulla vita nell'aldilà, quando Suor Maria della Croce chiede a quest'anima «Sono molti i protestanti salvati?» e risponde «Per misericordia del buon Dio vi è un certo numero di protestanti che sono salvi». Ma il loro purgatorio dura a lungo ed è rigoroso per molti. È vero che essi non hanno fatto abuso di grazie come molti cattolici, ma neppure hanno avuto le grazie insigne dei sacramenti e gli altri soccorsi della vera religione, il che fa sì che la loro espiazione si prolunghi per molto tempo in purgatorio. Questo è un passaggio molto bello, perché intanto si parla della fede cattolica come la vera religione, non c'è paura a dire chiaramente che Gesù ha rivelato un Vangelo che la Chiesa Cattolica ha accolto, custodito in oltre 2000 anni, che c'è una tradizione legata ai sacramenti, al patrimonio della fede, al primato di Pietro, che è la piena comunione nella vera Chiesa di Gesù Cristo. E chiaramente c'è una dottrina della salvezza che la Chiesa è sempre venuta meglio precisando, che dice che anche chi non è cattolico e non è cristiano può salvarsi, addirittura anche i non credenti. Sappiamo che la Chiesa riconosce la necessità di cercare Dio e la verità in modo sincero e di seguire le leggi morali che nella coscienza, sotto forma di legge naturale, in ogni uomo sono impresse. Però qua si dice un passaggio molto interessante: i protestanti fanno un purgatorio più lungo perché non hanno avuto le grazie sacramentali che i cattolici hanno, però si dice anche non hanno abusato delle grazie dei cattolici. Allora per noi, ecco, che abbiamo la grazia di aver ricevuto questa chiamata, possiamo dire siamo stati graziati, ma siamo anche più responsabili e dobbiamo fare attenzione a non disperdere questo grande tesoro in ordine alla salvezza, perché a chi più ha ricevuto è ovviamente più verrà anche domandato, come ci insegna Gesù nel Vangelo. E poi bisogna ricordarsi di operare e agire solo per Dio. Qui voglio lasciare un po' spazio proprio alla voce di Suor Maria Gabriella, quest'anima purgante, che dice quanto Dio solo conta. Fate seriamente attenzione a operare per Dio solo. Cercate sempre e solo Lui nelle vostre azioni. Guardatevi dal pensare cose come questa. Farò questo per piacere a tale persona. Al buon Dio non piacciono questi ragionamenti. Dirigete unicamente la vostra intenzione verso il fine di far piacere al vostro Gesù, a Lui solo. Ahimè, quante vite paiono piene di opere buone e alla morte ne saranno vuote, perché tutte quelle cose buone in apparenza, tutte quelle azioni clamorose, tutta quella condotta che sembrava irreprensibile, tutto questo non ha avuto Gesù solo quale fine. Si voleva fare bella figura, brillare, passare per esatto osservante degli obblighi della religione, per una religiosa fedele alla regola, ecco il solo movente di tante esistenze. E nell'altra vita, qui, quale delusione! Se sapeste quante poche persone agiscono per Dio solo. Ecco, questo è il punto fondamentale di tutto questo manoscritto del Purgatorio, che contiene le rivelazioni che Suor Maria della Croce scrive dopo aver avuto 16 anni di colloquio dal 1874 al 90 in Francia con quest'anima purgante. Quello che conta è Gesù, ma questo riguarda anche noi, non soltanto chi è in purgatorio. Dice infatti Suor Maria Gabriella: si ama tutto sulla terra, ci si affeziona a tutto, eccetto a colui che unico dovrebbe avere il nostro affetto e al quale noi lo neghiamo. Il Gesù del tabernacolo attende dei cuori che lo amino e non ne trova. Appena uno su mille che lo ama come si dovrebbe, amatelo voi, risarcitelo di questa indifferenza così colpevole che c'è nel mondo. Beh, possiamo dire, quando guardiamo all'attaccamento che abbiamo a questa vita terrena, quando pensiamo a quanti scongiuri facciamo per evitare il minimo incidente di percorso che possa toglierci le aspettative mondane che nutriamo giorno per giorno, ma chi desidera vedere Gesù? Io a volte me lo chiedo soprattutto, lo confesso sinceramente, quando tante persone mi dicono: adesso prego per la guarigione di quella persona malata. Bene, bene, affida proprio con abbandono filiale quell'anima nel cuore di Dio Padre, ma non pretendere una guarigione. A volte, vedi, il Signore conosce meglio di noi che cosa è meglio, e quando non opera un miracolo, ma lascia che una vita segua un corso naturale e possa terminare prima di quanto noi avremmo voluto, per una malattia o una fatalità, è perché sa che quello è il momento migliore. È il momento migliore rispetto a quello che potrebbe accadere dopo, perché Dio conosce l'uso futuro della libertà umana, e noi siamo lì a recriminare. Se un'anima, ad esempio, non essendo capace di guarire, si trova a purificarsi di tutte le pene che avrebbe dovuto scontare in purgatorio, e magari abbreviando il proprio corso terreno della vita, si trova ad andare direttamente in paradiso. Noi quasi questo lo prendiamo come un castigo, e ce la prendiamo con Dio che ci ha tolto questa persona, quell'altra, con una forma di amore, perdonatemi la franchezza, che è egoista. Perché amare l'altro significa volere il suo vero bene, e quale bene più grande ci può essere che non incontrare il Signore? Così è per la nostra vita. Quando qualcuno dice: è bello andare in paradiso, ma speriamo di andarci il più tardi possibile, non fa una bella battuta. Quello che conta è amare Gesù. Chiaro, su questa terra non possiamo amarlo come vorremmo e come lo ameremo in cielo, ma almeno desiderare di farne il primo, l'unico e l'ultimo oggetto del nostro desiderio ogni giorno. E infatti dice Suor Maria Gabriella: in cielo lo si ama molto, viene risarcito, ma non è ancora questo che Gesù desidera. Egli vorrebbe essere amato sulla terra, su questa terra dove si annienti in ogni tabernacolo, affinché avvicinarlo sia più facile, e non lo si fa. Si passa davanti a una chiesa con maggiore indifferenza che davanti a un monumento pubblico, e se talvolta si entra nel luogo santo è più per oltraggiare il divin prigioniero che vi risiede, con la propria freddezza, col cattivo contegno, con preghiere fatte in fretta e senza attenzione, che non per dirgli una parola cordiale, amichevole e di riconoscenza per la sua bontà verso di noi. E questo lo possiamo sperimentare anche noi, quanto è difficile che Gesù venga visitato nei tempi di grandi restrizioni a causa della pandemia del coronavirus, che ha obbligato a ragionevoli misure di sicurezza e precauzione per evitare che questa pandemia si diffonda ulteriormente, e abbiamo visto con quanta facilità si è permesso di riconoscere come necessità l'andare a comprarsi le sigarette o portare il cane in giro a fare la pipì e non invece andare in chiesa a fare adorazione eucaristica. E bisogna anche essere onesti, pochi forse sentono questa esigenza, pochi forse si accorgono che andando a fare la spesa passano davanti a una chiesa. Fermati un attimo, anche Gesù vede l'abbandono che sta vivendo in questo momento. È vero che si può fare la comunione spirituale, è vero che si può pregare da casa, è vero che si può leggere la parola di Dio, ma la presenza vera, reale, sostanziale, il modo con cui Gesù ha scelto di onorare la sua promessa: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, è l'Eucarestia. E l'Eucarestia si trova nel tabernacolo, si trova nella Chiesa. Non siamo avari potendolo fare di una visita al Santissimo Sacramento. E poi torniamo ancora a parlare del tempo. Ecco, entriamo ancora una volta nelle rivelazioni sulla vita in purgatorio. Vi sorprende anche il fatto che, nonostante tante preghiere, io rimanga a lungo senza poter gioire della visione del buon Dio. Ahimè, la perfezione di un'anima in purgatorio non avanza più rapidamente che sulla terra. Vi sono alcune anime, e il minor numero, che hanno da espiare solo alcuni peccati veniali. Esse non rimangono a lungo in purgatorio, alcune preghiere ben fatte, qualche sacrificio, le liberano in breve tempo. Ma quando si tratta di anime come me, ed è il caso di quasi tutte, quindi la maggior parte delle anime che sono in purgatorio non sono lì per peccati solo veniali, che hanno trascorso una vita pressoché nulla, occupandosi poco o quasi affatto della loro salvezza, bisogna che in tal caso ricominciate la propria vita nel luogo dell'espiazione. Bisogna cominciare di nuovo a perfezionare la propria anima, amare, desiderare colui che non si amava abbastanza sulla terra. Ecco, anche il purgatorio richiede tempo. Ecco perché, aggiunge, la liberazione delle anime talvolta si fa attendere tanto a lungo. E poi ancora, nel purgatorio generalmente non conosciamo le colpe degli altri, eccetto tuttavia quando il buon Dio lo permette a riguardo di certe anime per i suoi disegni. Questo è un riferimento importante perché l'anima immediatamente dopo la morte viene giudicata e riceve il suo destino eterno di salvezza o dannazione. La salvezza può essere con l'anticamera della purificazione in purgatorio o la salvezza nella beatitudine del paradiso oppure la dannazione all'inferno. Questo giudizio particolare avviene tra il Signore e l'anima singola. Quando ci sarà però la fine dei tempi, la parusia, il ritorno di Cristo nella gloria, ecco che lì ci sarà il giudizio universale e in quel momento verrà riconfermato il giudizio della nostra vita che era stata messa nella verità davanti a Cristo e giudicata sulla carità nel primo istante dopo la nostra morte, ma ci sarà anche un aspetto pubblico. Tutti vedranno il giudizio di ogni singola anima e questo perché intanto sarà la fine dei tempi, ci sarà la resurrezione dei corpi, ci sarà questa idea di socialità, comunità, direi proprio di fraternità universale, perché tutti i figli di Dio potranno nella pienezza della persona, corpo e anima godere della visione beatifica di Dio, ma ci sarà quell'aspetto pubblico del giudizio che manca nel giudizio particolare. È un aspetto in più che non è una semplice reduplicazione, e forse potrebbe essere, ecco, un modo per onorare le anime beate e forse per confermare la giustizia di Dio nei confronti di quelle che vengono condannate, ma soprattutto un modo per capire che il peccato ha anche una ricaduta sociale. Fare il male fa male a tutti, perché si porta male nella fraternità degli uomini. E quindi è bene che dinanzi a tutti, nel giudizio universale, ci sia questo giudizio. Ecco perché quest'anima purgante dice che in purgatorio solitamente non si conoscono le colpe degli altri. E poi ancora parla della vita terrena, di come si è ciechi rispetto a quello che si conosce finalmente nell'aldilà. Oh, se ci fosse concesso di ritornare sulla terra dopo aver conosciuto il buon Dio, che vita condurremmo? Ma rimpianti inutili. Non di meno sulla terra non si pensa affatto a tali cose, si vive da ciechi. L'eternità non è tenuta in nessun conto. La terra, che non è se non un luogo di passaggio, e che riceve solamente i corpi, i quali a loro volta diventeranno terra anch'essi, è il solo oggetto verso cui tendono quasi tutti i desideri. Quasi tutti desiderano soltanto la terra, la vita mondana, i beni materiali, e al cielo, aggiunge l'anima di Suor Maria Gabriella, non ci pensa, e Gesù e il suo amore sono dimenticati. Ecco, è fondamentale tenere lo sguardo fisso verso il cielo, ma è come dire, se la vita è un cammino, devo ricordarmi bene qual è la meta, perché altrimenti non c'è nessuna fatica che valga la pena di essere affrontata. Da soli fare questo non è semplice, occorrono bravi direttori spirituali. Ed ecco perché poco oltre, dice l'anima, i predicatori e i direttori spirituali non fanno del bene alle anime se non in proporzione alla loro unione con Gesù, vale a dire al loro spirito di orazione e alla vigilanza che usano nel conservare calmo il loro interiore, nel tenere sempre gli occhi dell'anima fissi su Gesù, pronti a fare e a sacrificare tutto per la salvezza delle persone loro affidate. Ecco, un bravo direttore spirituale ti unisce a Gesù quanto più unito lui. E questa è una bellissima testimonianza che si sente da tanti santi direttori. Pensate, Padre Pio, quante anime ha potuto dirigere, quanti figli spirituali aveva, e per ognuno si sacrificava e offriva, sapendo che col suo amore a Gesù avrebbe innamorato queste anime del Signore, con i suoi sacrifici le avrebbe purificate e perfezionate. E poi c'è un passaggio interessante sull'apostasia che colpisce la Francia. Siamo a fine 800, ma sentite che giudizio. La Francia è molto colpevole. Disgraziatamente essa non è sola. In questo momento non c'è un solo regno cristiano che non cerchi apertamente o di nascosto di scacciare il buon Dio dal proprio seno. Questa è l'ora del principe delle tenebre. Ora pensate, se circa 150 anni fa si poteva dire questo della Francia e dell'Europa, cosa dovremmo dire noi oggi? E mi viene in mente il messaggio che la Regina della Pace ha consegnato nel gennaio del 1997, dicendo: «Cari figli, vi invito a riflettere sul vostro futuro. State costruendo un mondo nuovo senza Dio. La novità è che per la prima volta nella storia dell'uomo e del mondo si vive rifiutando a livello globale Dio, è come se l'apostasia divenisse una scelta di massa». E poi ancora, per concessione del buon Dio in purgatorio sappiamo quello che avviene in questo momento sulla terra affinché possiamo pregare per le grandi necessità presenti, ma la nostra preghiera non basta. Se Gesù trovasse alcune anime di buona volontà che volessero risarcire come conviene e muovere a pietà la di Lui maestà e la sua bontà, farebbero cosa grata al suo cuore offeso da tante amarezze e commuovere la sua misericordia. Dite questo alla Madre Superiora. È bello questo, è come se ricevessimo una lezione sulla comunione dei santi e come efficace mezzo per intercedere la misericordia da Dio. Ci sono tante esigenze spirituali anche nel mondo e nella Chiesa di oggi, cari amici, e come possiamo ottenere le grazie che servono per la conversione dei peccatori, di coloro che non conoscono ancora l'amore di Dio, di coloro che sono lontani. Contiamo sulle preghiere dell'anime purganti, certamente, contiamo sulle preghiere delle anime del paradiso, ma come no, ma dobbiamo contare anche sulle preghiere e i sacrifici delle persone che qui sono ancora in cammino, in pellegrinaggio, nella chiesa peregrinante sulla terra, e siamo noi, dobbiamo fare la nostra parte per le esigenze del mondo, e poi ricordarci però che possiamo fare anche la nostra parte per le anime che sono in attesa di essere liberate. Quanto alle indulgenze plenarie, posso dirvi che poche, molto poche, sono le persone che lucrano interamente. Occorre una sì grande disposizione di cuore e volontà che è raro, più raro che non si pensi, avere tutte le disposizioni richieste per ottenere così la remissione totale dei propri peccati. Ecco, per se stessi o per gli altri, le indulgenze plenarie sono un grande dono che la Chiesa fa all'umanità. Pensiamo al perdono di Assisi, che San Francesco ottiene da Gesù stesso. Ma la condizione fondamentale, sappiamo quelle generiche, la comunione, il fatto di essere confessati 8 giorni prima, 8 giorni dopo, se non si è ovviamente in peccato mortale, la preghiera del Padre Nostro per rinnovare la divina figliolanza, il credo per rinnovare la professione di fede, un Pater Ave Gloria secondo le intenzioni del Papa, ma la condizione più importante è quella di rinunciare anche al più piccolo attaccamento al peccato veniale. E capite che questo ci fa comprendere la verità delle parole di Suor Maria Gabriella. Quante poche anime possono dire di avere veramente questa disposizione dentro di loro. E ancora, quando l'anima è vicina al termine di tutti i suoi desideri, cioè vicina al cielo, essa può essere liberata. Ecco, quindi è quasi il momento di passare dal purgatorio al paradiso, sta parlando di questa condizione, e venire ammessa alle gioie eterne per l'efficacia di un'indulgenza plenaria ben acquistata o anche acquistato a metà secondo la sua intenzione. Ma quanto alle altre anime non è così. Ecco, praticamente le anime più sono vicine alla liberazione e più ricevono un beneficio, anche se evidentemente le anime che sono più indietro nel loro cammino di purificazione anche se la volontà di Dio, ecco, lo permette, lucrano molto, molto meno. Quindi è un po' come dire, più si è vicini a Dio e più si ottiene dell'indulgenza plenaria che viene offerta sulla terra da qualcuno che prega per le anime purganti. Sappiamo il motivo per cui era finita nel secondo purgatorio, quello più grave, non erano semplicemente peccati veniali, quelli che hanno portato questa giovane suora a fare, lo sappiamo, dal 1871 fino al 1890, quasi 20 anni di purgatorio, la tiepidezza. Ne parla così: quanto poco spirito interiore c'è nel mondo, anche nelle comunità, intende le comunità religiose. Si cercano troppo i propri comodi, non ci si vuole imporre violenza in nulla, e non di meno il buon Dio sarebbe così contento che lo si amasse, ma senza costrizione, di buon cuore, se egli potesse ottenere questa soddisfazione nella comunità, quante grazie darebbe. Dal canto vostro, qui si rivolge a Suor Maria della Croce, cercate a tutto potere di vincervi e di amare Gesù come egli attende da voi. Ecco, la tiepidezza non è un peccato da sottovalutare e all'opposto incoraggia sempre a fare tutto e solo per Dio. Solo le azioni fatte con grande amore, sotto lo sguardo di Dio, per compiere la sua santa volontà, avranno in cielo ricompensa immediata, senza passare per il purgatorio. Ecco, una vita che fosse capace di spendersi totalmente, sempre e solo per Gesù, andrebbe direttamente in paradiso. Come ottenere un così grande dono? Come riuscire a vivere, ecco, in una pienezza tale tutto quello che l'anima desidera e aspetta? E beh, quello che bisogna fare è cercare di comprendere qual è la via per riuscire a fare tutto per Gesù. La via è la via della croce. E infatti dice l'anima dal purgatorio, le croci, le grandi croci, quelle che straziano il cuore, sono il retaggio degli amici del buon Dio. I giorni passati vi lamentavate con Gesù di avervi egli inviato non poche pene quest'anno, è vero. Ma perché trovate queste croci così pesanti? Perché non amate abbastanza. E questo è interessante, anche noi a volte siamo nella prova, e ricordiamoci che ogni prova è una prova se stiamo con Dio ed è una tentazione se ci lasciamo irretire dalle seduzioni e dagli inganni del demonio. Le croci ci sembrano pesanti quando non amiamo abbastanza, perché se amiamo entriamo in una tale comunione con Dio che siamo come il cireneo che porta la croce vicino a Gesù. Voi non avete ancora finito con le croci. Quelle che avete avuto fin qui è solo il preludio di quello che vi attende. Non vi ho forse detto che soffrirete sempre quanto al corpo o quanto allo spirito e sovente all'uno all'altro insieme? Ecco, qui sembra quasi che stia minacciando dei castighi ancora più grandi per questa povera Suor Maria della Croce che è ancora in terra. Ma ascoltate bene, non si dà santità senza sofferenze. Ma quando lascerete agire liberamente la grazia in voi, quando Gesù possiederà la vostra volontà e lo lascerete padrone assoluto, le croci, per quanto gravose siano, non peseranno più, l'amore assorbirà tutto. Ecco, bisogna ricordare la croce, che cosa è stato nella vita di Simone di Cirene, cosa è stata la croce per il buon ladrone di Isma e il momento in cui si incontra Gesù, e così potrebbe essere per noi. Potrebbe essere che in un momento di difficoltà, di malattia, un lutto, la perdita di un amico, una difficoltà sul lavoro, una disarmonia in famiglia, quello che prova la nostra sofferenza a livello fisico, a livello morale, potrebbe essere un modo per comprendere la croce di Gesù. Ma se comprendo quanto ha sofferto lui, capisco anche che, avendo sofferto per me, mi ha amato altrettanto. E se capisco quanto Gesù mi ha amato, desidero io amarlo, desidero corrispondere a questo grande amore. E amandolo, la croce diventa più leggera. Chi si accorge del peso di certe notti passate a vegliare una persona amata? O chi si accorge della fatica di un cammino quando andiamo a trovare qualcuno che non vediamo da tanto tempo? Pensate quanto più potente è l'amore che Gesù sa mettere nel nostro cuore quando accogliamo la croce per amor suo. E poi c'è il tema del distacco, riuscire a rinnegarsi per stare con Gesù. Quel distacco che Gesù esige da un'anima è perché la vuole tutta sua. Bisogna che l'anima si stacchi da tutto ciò che la circonda, soprattutto da se stessa, dall'amor proprio, per arrivare all'unione divina. E Gesù solo sa quanto costi a un'anima arrivare fin là. bisogna aver fatto più di un sacrificio, bisogna che il cuore sia frantumato, espellere ogni amore umano. Quanto è difficile, quanto poche sono le anime che capiscono queste cose. Bisogna che vi eleviate al di sopra della terra, a cui si rivolge direttamente a Suor Maria della Croce. Dovete giungere a non perdere mai di vista il Signore neppure un minuto. Vedrete che l'anima più unita a Gesù non perderà mai tempo, ma sarà anche la più esatta nell'adempimento di tutti i suoi doveri. Colui che ella ama agisce per lei. Qual bene può fare attorno a sé un'anima interiore? Non v'è che lei ne faccia. Tutto quello che è fatto altrimenti è inutile. L'anima unita a Gesù è la sola, ha diritto nel suo cuore, né la padrona, e Gesù non le nega nulla. Ecco, a volte uno pensa, se coltivo la vita dello spirito, se prego, se adoro, se medito, ma non posso più fare tutte le cose che devo fare, no? Quante volte mi chiedono, a volte, delle signore, no? Madri di famiglia, che sono mamme, che sono mogli, ma io come faccio a trovare il tempo per la preghiera? Mi sembra di sottrarmi ai miei doveri. Ma fai la prova. Riserva del tempo speciale per coltivare il tuo rapporto col Signore e prova a dirmi se hai fatto meglio o peggio le cose che devi fare in casa ordinariamente. E tutti infallibilmente, dopo un po' che ci provano, mi dicono, faccio prima e meglio. Ma certo, perché le cose fatte con amore si fanno meglio, e le cose fatte col Signore si fanno con l'amore più grande che ci sia. A quelle cose che fai anche per tuo marito, il fatto che gli prepari la cena, gli stiri la camicia, se lo fai amando soltanto lui ed è un amore puramente terreno, farai delle cose abbastanza buone. Ma se lo fai per amore di Gesù, fai dei miracoli. Ricordatevi l'esempio di Caterina da Siena, che soverchiata dai genitori che non volevano accettare il suo voto di verginità, voleva essere sposa di Gesù, invece avrebbero preferito mandarla sposa di qualche nobilotto del tempo, la misero al lavoro a servire i suoi fratelli, era l'ultima di 23, e quindi immaginate, era come essere una schiava in casa, non una parola di lamento, e alla fine quando il padre si convince di questa vocazione, le chiede come hai fatto a non ribellarti in tutto questo tempo, che cosa risponde Santa Caterina? Santa Caterina dice, io non pensavo di servire voi padre o mia mamma o i miei fratelli, ma di servire Gesù e gli apostoli. Ecco, fare tutto per Gesù. Riflettete su tutto ciò che vi dico, aggiunge l'anima di Suor Maria Gabriella, una sola delle vostre azioni offerte per mio sollievo, con purezza di intenzione, quando siete molto unita a Gesù, mi consola più di molte preghiere vocali. Più presto vi perfezionerete e più presto parimenti avverrà la mia liberazione. Certo, se abbiamo qualcosa di bello che vogliamo ottenere per le anime che ci sono care in purgatorio, cominciamo a perfezionare noi stessi. Quando dico ai pellegrini che accompagno a Međugorje, se volete le grazie, cercate di stare nella grazia, andate a confessarvi, cominciate una vita di fede, di preghiera onesta, ecco che non sempre capiscono. Ma se vuoi che il Signore entri nella tua vita portando quei doni che chiedi per te e per gli altri, devi aprirgli la porta. E aprire la porta significa cominciare a lavorare sul sé, alla tua conversione. E oltre a parlare delle religiose e dei laici che camminano in terra, parla anche del clero quest'anima. O se vi fosse dato comprendere come Gesù è trattato con indifferenza e disprezzo sulla terra, non solo dalla gente comune, com'è messo in ridicolo e schernito anche da coloro che dovrebbero amarlo. Così l'indifferenza si trova nelle comunità, tra i religiosi e le religiose, suo popolo eletto. E là dove egli dovrebbe essere trattato da amico, da padre, da sposo, a momenti non lo si considera più che come un estraneo. La si trova anche questa indifferenza fra il clero. Al presente, più che mai, Gesù è trattato dai sacerdoti da pari a pari. Essi dovrebbero tremare, pensando all'augusta missione loro affidata, e il più sovente l'adempiono con freddezza, con tedio. Quanti ve ne sono che posseggono lo spirito interiore? Il loro numero è piccolo. Qui in purgatorio sacerdoti che espiano la loro indifferenza e una vita senza amore sono numerosi. Ecco, mi colpisce questo riferimento intanto perché penso a quanto non ci sia una sola parola di biasimo. C'è una constatazione. Tante anime di sacerdoti sono in purgatorio e non nel purgatorio più leggero per la tiepidezza, l'indifferenza, la mancanza di amore con cui hanno assolto una vocazione eccelsa. Il sacerdozio non è un lavoro come gli altri, cari amici, sappiamo che viene impresso un sigillo nell'anima che rimane in eterno. Certo, uno può dire, ma quante sono le vocazioni? Tu fai il medico, quello fa l'insegnante. Sì, vero, ma la vocazione che lascia un sigillo nell'anima per l'eternità è quella sacerdotale. Perché si è chiamati a un sacerdozio ministeriale che permette di consacrare, di assolvere e di svolgere quella presenza salvifica tra gli uomini che è l'essere la persona di Cristo che cammina tra individui bisognosi di salvezza. È un compito importante e come siamo abituati a sentire anche la Regina della Pace ci chiede sempre di pregare per i nostri pastori, è fondamentale. Io mi sento anche di dire preghiamo per coloro che magari nel momento in cui vengono sospese le celebrazioni, della messa, come può essere in questo periodo, perché la pandemia impone restrizioni, poi andremo a vedere se ecco giuste o no, equilibrate o eccessive, ma a un sacerdote viene impedito di celebrare coram populo, cioè con il popolo presente, ma almeno non smetta di celebrare. Invece capita anche di sentire di sacerdoti o parroci che smettono di celebrare perché tanto non c'è nessuno, come se la messa non avesse un valore redentivo infinito per il fatto stesso che la celebra quel sacerdote anche da solo. Ecco, quindi vi chiedo, proprio teniamo nella preghiera questi sacerdoti che stanno vivendo momenti magari di crisi, momenti di difficoltà, momenti di prova e li accompagniamo con la nostra preghiera. E poi ancora si rivolge a tutti noi e ci esorta quest'anima a considerarci pellegrini per il cielo. Non lasciatevi mai prendere eccessivamente né dai doveri delle cose e dalle sollecitudini della vita, così che la vostra anima perda quella libertà che le impedisce di unirsi ogni istante a Gesù e di conoscere e realizzare la sua volontà. Se soffrite, accettate la sofferenza con rassegnazione perché è permessa da Gesù, il quale, dal male che lascia fare, sa trarre il più grande bene. Andate con tutta semplicità ai piedi del tabernacolo e lì confidate a Gesù quello che vi pesa sul cuore, quello che è gravoso a portarsi, il suo cuore alleggerirà tutto. Ecco perché è così importante anche in questo tempo trovare quel tempo prezioso per andare qualche minuto davanti al tabernacolo, adorare il Santissimo Sacramento, a lodarlo, ringraziarlo, chiedere a Gesù alleggerisci il mio cuore, il cuore dei miei cari in questo momento di prova, di malattia, di difficoltà. E questo funziona, eh? Forse siamo un'epoca in cui si crede più alla scienza che alla religione e senza nulla togliere al grande contributo che le scienze umane o la psicologia possono portare al benessere dell'uomo, considerato nella sua globalità alcuni beni di ordine soprannaturale, alcune grazie, alcune risoluzioni, alcune guarigioni, solo Dio le può dare, nessuno psicologo e nessuna medicina. Al contrario, dice, se gioite di quella gioia soprattutto che si prova a rari intervalli nel servizio del buon Dio, accettatela con umiltà e pensate che la terra non è il soggiorno del riposo, ma luogo di esilio, di fatica e di sofferenza. Ecco, questa è la verità. Siamo in pellegrinaggio in terra verso il cielo. Lasciate che tutto passi intorno a voi, senza che ne vada di mezzo la vostra tranquillità, nulla vi fermi. La vostra sola gioia, l'unico vostro riposo, deve trovarsi in Gesù. Operate per Lui solo. Abbiate una grande indifferenza per le cose. Questa anche è la misericordia di Dio, che desidera vedervi in quel distacco che gli attende dalle anime che vuol fare direttamente sue. E poi ancora parla del valore delle sofferenze. Dice, le sofferenze della terra, le pene, sono meritorie. Non lasciatevele sfuggire, soprattutto amate. L'amore cancella molti peccati e li fa anche evitare perché non si vuole recare dispiacere a colui che si ama. Per questo l'anima che ama veramente Gesù sta continuamente in guardia ed evita tutto ciò che potrebbe offendere i suoi sguardi divini. Molte anime del purgatorio fanno assegnamento su di voi per essere liberate dal luogo delle loro sofferenze. Pregate con tutto il cuore per esse. Ecco, siamo ancora nel 1880, quindi mancano ancora 10 anni alla completa liberazione di quest'anima, ma vediamo che l'intensità degli insegnamenti spirituali offerti è veramente profondissima. Le sofferenze le pene sono meritorie. Lo ripeto, la croce è il mezzo privilegiato per unirsi a Gesù. Pensate quando un'anima che è ancora pellegrina sulla terra vive in modo santo il percorso della Quaresima. Quando ci si prepara alla Pasqua, non scandendo il proprio tempo in base alle così ricorrenze, agli impegni, alle incombenze mondane, ma guardando invece come domenica per domenica ci viene permesso di entrare nel mistero di quel triduo attraverso il quale si compirà la redenzione dell'umanità. Rivivere con Gesù nella settimana santa quel momento di amore incommensurabile che Dio ha portato per l'umanità col sacrificio di suo Figlio. Pensare che quando siamo nella sofferenza abbiamo un dono grandissimo, e lo ripeto, nel momento in cui hai una croce, tu ti accorgi di quanto ha sofferto Gesù. C'è una sofferenza fisica, c'è un male. Ricordo una bella testimonianza che mi rese una volta una signora che, molto malata, gravemente malata, si disperava per la sua salvezza, si trova ad avere il fratello che arriva al suo capezzale, il fratello non era credente, e questo fratello le dice: che cosa posso fare per te? E lei dice: nulla, sono io che posso fare qualcosa per te. Tu? Tu puoi fare qualcosa per me? Le ha detto, che sei in questo letto, malata, che si dispera di poterti salvare. Certo, io posso offrire la mia sofferenza e la mia vita per la tua conversione. Ecco, questo fratello è andato via anche un po' arrabbiato, forse infastidito da queste parole, ma qualcosa lo ha spinto a tornare il giorno dopo. Ed era pronto ad ascoltare. Questa sorella nella sua malattia ha cominciato a testimoniare l'amore di Gesù che sentiva nella sofferenza e diceva: vedi, quando vengono a togliermi i punti, a cambiarmi le medicazioni e mi dicono urli pure se vuole, e io cerco di trattenermi e di soffrire dicendo: Gesù, anche questo è per te, perché tu hai sofferto più di me. E poi questa signora racconta di come a un certo punto, sofferenza per sofferenza, è arrivata a comprendere che Gesù aveva sofferto tantissimo, ma avendo sofferto per amor suo, dice, non ho capito soltanto quanto Gesù ha sofferto, cosa molto più importante, ho capito quanto Gesù mi ha amato. Ecco, questo io penso, cari amici, che dovremmo pensarlo anche noi, ogni volta che ci troviamo in un momento di prova o di sofferenza, sapere che possiamo meritare, ma pensate anche soltanto quando c'è una persona malata e vediamo che nell'agonia magari non ci parla, passa giorni, settimane, incapace di comunicare col mondo, poi muore. E noi rimaniamo senza parole, pensiamo: questo tempo di agonia è stato inutile, perché sprecare tutto questo tempo? Ma se avessimo fede in Dio, dovremmo invece interrogarci, chissà se quell'anima, durante quel tempo di agonia così prolungata, di sofferenza, pur incapace di interagire con i suoi cari, i suoi familiari, come magari avrebbe voluto, ha interagito con Dio, e magari Dio le ha chiesto: offri questa tua sofferenza ancora per un po', mentre sei sulla terra, per poter essere purificata. E noi non lo sappiamo. Ma quei giorni, quelle settimane, quelle ore di sofferenza che ci sono sembrati insopportabili e che mai avremmo voluto e per i quali magari abbiamo anche litigato con Dio chiedendogliene conto, sono quelli che magari sono valsi a quell'anima di questa persona cara il paradiso immediatamente dopo la morte. Eppure noi siamo lì che recriminiamo perché teniamo sempre lo sguardo fisso per terra. Ma se non desideriamo il paradiso per noi, se non desideriamo noi per primi di incontrare il Signore, ma come potremo avere questo desiderio per gli altri e per le persone che amiamo? Ecco quindi che facciamo tesoro di questo grande insegnamento spirituale che ci viene da questo manoscritto del Purgatorio. Gli anni che seguono sono gli anni in cui sempre più si avvicina la liberazione, si fanno più rari i colloqui, sempre più sporadici, finché si arriva alla fine di questo cammino. Sono passati 16 anni dal primo colloquio, è il 1890, il 2 di novembre. Cercherò di farvi comprendere, dice l'anima di Suor Maria Gabriella a Suor Maria della Croce, per quanto lo possiate sulla terra, ciò che è il cielo. Ecco, ha parlato per tanto tempo del purgatorio, della perfezione spirituale in terra, adesso sta per dire la cosa più importante, che cos'è il cielo. Sono feste sempre nuove, che si succedono senza interruzione. Una felicità sempre nuova che ancora non si ha, così sembra, mai provato. È un torrente di gioia che trabocca incessantemente su tutti gli eletti. Il cielo è Dio soprattutto. È Dio amato, gustato, goduto. È in una parola la sazietà di Dio, senza tuttavia esserne saziati. E più l'anima ha amato Dio sulla terra, più ha raggiunto la vetta della perfezione e più parimenti ama Dio e lo comprende in cielo. E sì, perché si è capaci di amore nella misura in cui ci si è addestrati a questo amore. È qui che dobbiamo imparare a spalancare il cuore per godere il più possibile di Dio in paradiso, un po' come se, sapendo che la nostra beatitudine sarà l'essere pieni, ma ognuno è un contenitore diverso, e questo spiega perché anche in paradiso, secondo la visione dantesca e secondo quello che si intuisce, ci sono livelli di beatitudine diversa, ma, come dice Piccarda Donati, nella sua volontà e la nostra pace, saremo tutti contenti, perché saremo comunque ripieni di Dio. Ma perché, ci sembra dire quest'anima, non approfittiamo di questo tempo di cammino terreno per cercare di ingrandire il contenitore che noi siamo? Per essere ripieni in paradiso, ma essere ancora più pieni, in quanto ancora più capaci di accogliere questo amore di Dio. E si chiude dicendo: Gesù è la vera gioia della terra e l'eterna gioia dei cieli. Non c'è altra gioia sulla terra, non c'è soddisfazione, piacere, felicità momentanea che possa eguagliare la gioia che Gesù dà sulla terra. E la dà già adesso, lo sappiamo, perché quando parlava ai suoi discepoli nell'ultima cena, Gesù diceva: vi ho detto queste cose, aveva appena dato il comandamento dell'amore, rimanete nel mio amore, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E questa pienezza, questo centuplo che si comincia a sperimentare nella verità sulla terra, diventa la gioia eterna dei cieli. Possa davvero, ecco, l'intercessione anche di quest'anima che è entrata poi nella gloria di Dio, oggi possiamo tranquillamente riconoscere come anima santa, possa anch'essa intercedere per noi insieme alla Beata Vergine Maria, perché possiamo mettere a frutto questo prezioso insegnamento ricavato dal manoscritto del Purgatorio. Ecco bene, cari amici, io mi fermo qui, avendo concluso anche l'esame di quest'opera. Facciamo una piccola pausa musicale, poi abbiamo qualche minuto per le vostre domande, che vi prego sempre brevi e in tema con quanto trattato. A tra poco. Buonasera. Buonasera. Sono Daniela, telefono da Brindisi. Benvenuta. Grazie. Le volevo chiedere questo. Io faccio questa preghiera tratta dalle preghiere di Santa Brigida. Ti adoro, Croce Santa, che fosse ornata dal corpo sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo preziosissimo sangue, eccetera, eccetera. Allora dice, recitata 33 volte il Venerdì Santo, libera 33 anime del Purgatorio. Recitata 50 volte ogni venerdì, ne libera 5. E venne confermata dai papi Adriano VI, Gregorio XIII e Paolo VI. Ecco, io faccio questa preghiera e dico anche i nomi delle anime che voglio che siano liberate, anche le anime più abbandonate. È valida? Non so. Grazie per questa domanda che mi permette di rispondere a quanto mi viene chiesto sovente. Allora, questa è una bellissima preghiera e piace molto anche a me poterla recitare, ed è stata confermata, è vero, da Paolo VI prima della riforma delle indulgenze. E cosa è capitato con la riforma? Non che questa preghiera non sia più buona o abbia perso la validità, ma la Chiesa ha preferito non legare più il numero delle recita dell'orazione al numero delle anime che si liberano. Ha preferito evitare questi automatismi, e questo per non fare un torto a Dio. Non è che la Chiesa abbia impoverito il valore di questa preghiera, tutt'altro, ma è come se dicesse: ma perché recitandola 33 volte liberi soltanto 33 anime? Chi ti dice? e poi soprattutto perché sembra un atto esteriore, quando invece conta, l'abbiamo sentito anche nel corso di queste trasmissioni legate al manoscritto del Purgatorio, conta l'amore con cui si può fare questa preghiera. Faccio un esempio molto semplice per capire la grande misericordia che la Chiesa ha cercato di infondere nel cuore dei fedeli, togliendo alcuni automatismi, non come impoverimento ma come invece arricchimento. Immaginiamo una persona che per impedimenti gravissimi non possa recitare il venerdì questa preghiera, ma non potrebbe essere che recitandola il sabato la misericordia di Dio applichi lo stesso il valore, il merito e l'indulgenza legata a questa preghiera per anime purganti? Ecco, allora credo che recitare questa preghiera 50 volte come un rosario ogni venerdì sia una cosa buona. Recitarla con la pretesa che siano 5 anime e proprio quelle essere liberate, forse sarebbe un pochettino un ridurre la misericordia di Dio. Io mi permetto di suggerire, recitiamo 50 volte questa preghiera, speriamo che il Signore liberi il maggior numero possibile di anime e oltre a indicarne alcune magari lasciamogli la libertà di essere lui stesso a scegliere quelle più dimenticate dagli uomini e più bisognose della divina misericordia. Quindi sicuramente proseguire con questa preghiera, ma con questa libertà e questa maggior fiducia nella divina misericordia. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Salve, mi chiamo Laura. Sono rimasta vedova 7 anni fa, avevo 52 anni. Mio marito è morto improvvisamente. Era una persona estremamente innamorata di Cristo, una persona specialissima. Tant'è vero che quando è morto mi ha chiamato, subito dopo però è morto, mi ha detto di stare tranquilla, di essere serena, quindi io con i miei figli sono stata tranquilla e sono serena. Vorrei dire questo però, che effettivamente pensavo di aver fatto una scoperta eccezionale, poi invece parlando, sentendo lei questa sera alla radio, il dolore è un qualcosa che comunque accresce, non c'è niente da fare, il dolore è una grazia, può sembrare un paradosso, può sembrare una follia, ma il dolore, se inteso con Gesù, diventa una grazia. Questo è quello che mi sento di dire come testimonianza. Grazie cara Laura, è una testimonianza bellissima. L'accolgo con l'impegno da parte mia e di tutti i nostri cari amici ascoltatori che fanno parte della grande famiglia di Radio Maria, l'impegno, dicevo, a pregare per l'anima di tuo marito. È molto bello saper riconoscere come il dolore può trasformarsi in una grazia. Noi sappiamo che il dolore e la sofferenza non sono mandati da Dio, sono permessi da Dio. Bisogna avere l'onestà di ritornare alle origini della nostra storia umana per capire i motivi per cui esistono tali dolori e sofferenze. Tutto è conseguenza della rottura dell'armonia con Dio che segna il peccato originale. Sappiamo bene la conseguenza del rifiuto che i nostri progenitori hanno espresso ribellandosi al progetto di Dio, volendo essi stessi conoscere cosa fosse bene e male, rendersi indipendenti, cadendo prigionieri di quella tentazione satanica che è il voler essere come Dio, anziché riconoscere che siamo figli di un Padre buono e misericordioso. Allora viene da dire, ma queste conseguenze quindi in sé non sono buone? Ma sicuramente no, il male fa male, il dolore istintivamente vorremmo evitarlo, ma possono diventare occasioni di grazia. Lo dicevo anche durante la trasmissione, è fondamentale riconoscere che in ogni sofferenza, in ogni dolore, in ogni caduta, in ogni croce, o riconosco che è una prova, non prova perché devo provare qualcosa a Dio, una prova per me. Come faccio a sapere quanto amo il Signore, quanto è forte la mia fede? Con dei momenti di prova. Io da insegnante, non vi paia banale l'esempio, quando faccio delle verifiche per i miei alunni, mica le faccio per sapere io cosa sanno. Cioè, la maggior parte delle volte lo si capisce in itinere, chi segue, chi no, chi capisce, ma perché loro abbiano una fotografia del loro punto a cui sono arrivati, del loro cammino di apprendimento. E questo vale anche per la fede. Alcuni momenti di prova Dio li permette perché possiamo conoscere quanto la nostra fede, il nostro amore, la nostra carità, la nostra speranza sono autentici oppure no. E dall'altra parte possiamo invece cadere e vivere come una tentazione questo momento di sofferenza e quindi lasciarci andare allo scoraggiamento, alla disperazione, alla recriminazione, alla ribellione, fino anche alla bestemmia e quindi andare dalla parte del demonio che cerca ovviamente di allontanare le anime da Dio. Questa è la prima cosa che mi sento da dire, unitamente al ringraziamento ancora una volta per Laura, per la sua testimonianza. E poi la seconda, com'è bello poter riconoscere i segni che ci rendono moralmente certi del destino di un'anima. Di nessun'anima si può dire come sarà giudicata da Dio, solo Dio lo conosce, è vero, però sentire una moglie che dice del marito che era innamorato di Cristo, che l'ha rassicurata prima della fine. Ma questo, cara Laura, vuol dire avere quegli elementi umani che dicono io posso veramente sperare che quest'anima fosse preparata e con la mia preghiera voglio aiutarla perché si purifichi per quello che ancora può mancare affinché possa presto entrare nella gloria di Dio. Ecco, allora concludiamo questa puntata, cari amici, il tempo è passato velocemente, però spero che abbiate potuto, ecco, apprezzare gli insegnamenti sul cielo e sulla vita spirituale che dobbiamo saper condurre anche in questa terra. Tanti erano gli spunti, forse troppi, ma ognuno avrà saputo ricevere quello che il buon Dio riteneva più utile. Io concludo ricordandovi di pregare come sempre per il Santo Padre, per tutta la Chiesa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché siano pastori coraggiosi e fedeli in questo momento e perché il popolo di Dio e tutti i laici sappiano sostenere questa Chiesa nella prova con una preghiera docile, una preghiera proprio amante di questo proprio popolo di pastori che ci è stato donato dal Signore. Lui li ha scelti, ci ricorda sempre la Madonna e noi dobbiamo soltanto pregare per loro e saperli amare. E poi una preghiera particolare per tutte le persone che stanno vivendo il disagio di questa pandemia e che si trovano a vivere direttamente o indirettamente questa sofferenza per tanti e tanti motivi, con sofferenze fisiche, morali e spirituali. Tutti ricordo nella preghiera, tutti voi dico, ricordiamoci come grande famiglia di Radio Maria viviamo la comunione dei santi già su questa terra. Auguro a tutti una buona settimana santa, una santa Pasqua di resurrezione e ci ritroviamo il primo sabato del prossimo mese a Dio piacendo. Una santa notte a tutti da Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.